Passo il mio tempo a fumare e a pensarti. Non parlo dell'erba, sono sobrio, vorrei solo amarti. Con la mia voce consolarti, dirti che non sei così pazza, dirti che non lo sono anch'io. Amore fuori il nostro, che brucia un freddo archivio di freddo inchiostro. Ci amavamo di nascosto, ma non ho rose per te come povia, ma vorrei mettere la mia vita a posto. La vita è sofferenza, impara ad allenarti, a opporgli resistenza. Vorrei dirti che il dolore svanisce come altri, ma la stanza della follia torna ad urlarti. Non sei più mia, forse non sei mai stata. Il tuo tipo ti trattava male, sei impazzita. Anch'io ho una rosa ma nera della mia imminente morte. Ho polmoni da buttare, ma un cuore grande e forte. Ma se resistiamo insieme alle tempeste, anche piccoli e con niente, ruggiranno i nostri cuori contro i lutti del corpo e della mente. Ho interpretato questo tutto come una giostra. Resta un po' d'amaro in bocca, giusto per non sentirmi troppo diverso, per non sentire le gabbie di questo cupo mondo. Ti dedico un verso fatto di musica del mondo, un po' per farmi capire, un po' per non andare a fondo, così che il nostro tempo rimanga scandito nel tutto e non sia solo un altro pianto. Passo il mio tempo a fumare, a pensarti. Non parlo dell'erba, ora sono sobrio, vorrei solo amarti. Con la mia voce consolarti, dirti che non sei così pazza, dirti che non lo sono anch'io. Amore fuori il nostro, che brucia un freddo archivio di freddo inchiostro. Ci amavamo di nascosto, ma non ho rose per te come povia, ma vorrei mettere la mia vita a posto. La vita è sofferenza, impara ad allenarti, a opporgli resistenza. Vorrei dirti che il dolore svanisce come altri, ma la stanza della follia torna ad urlarti. Non sei più mia, forse non lo sei mai stata. Il tuo tipo ti trattava male e sei impazzita. Anch'io una rosa, ma nera della mia imminente morte. Ho polmoni da buttare, ma un cuore grande e forte. Ma se resistiamo insieme alle tempeste, anche piccoli e con niente, ruggiranno i nostri cuori contro i lutti del corpo e della mente. Ma se resistiamo insieme alle tempeste, anche piccoli e con niente, ruggiranno i nostri cuori contro i lutti del corpo e della mente. Contro i lutti del corpo e della mente. Ruggiranno i nostri cuori, ruggiranno.